E così ha fatto, facendo poi anche vedere al ragazzo, ma proprio scritto anche, proprio far vedere l'articolo del codice e magari, se c'è la possibilità, farlo parlare con qualcuno, un carabiniere o con qualcun altro, che spieghi che quello è un reato davvero, certo, e che non si gioca. Mi sembra che dalle indicazioni tue di Alberto, Carla, ci sia proprio così questo messaggio. Non possiamo limitarci a sgridarlo e dire che cosa hai fatto una cosa gravissima. I ragazzi hanno bisogno di figure adulte che li facciano meditare, li facciano riflettere su quello che hanno fatto, portando proprio degli esempi e facendoli toccare con mano. Carla, avete fatto un bel lavoro, secondo me, e io sono contenta di averti avuto nostra ospite, perché i nostri amici da casa, da questo libro, secondo me, potrebbero trarre degli spunti di riflessione molto interessanti, e poi operativamente ci sono proprio delle soluzioni, il che cosa fare, che a me piace molto. Alberto, vuoi salutare? Salutiamo la Carla, no, come si dice a Milano. Molto grati, vi ricordiamo il suo libro, Valeria e Luca, La legalità a misura di teenager, San Paolo Edizioni. Grazie, okay. Carla. Grazie mille a voi. Buona giornata e grazie, buon lavoro. Buona giornata a voi. Alberto, e a proposito di libri, io ti ho messo al lavoro, devo dire che non è stata una grande fatica. No, però la scorsa settimana abbiamo parlato per tutta la trasmissione di regali di Natale, cose che i nostri figli potrebbero, vorrebbero ricevere, e adesso mi hai messo al lavoro, perché prova un po' a dire cosa mi hai fatto fare. Perché io ho pensato che accompagnare i nostri ragazzi, i nostri bambini, anche quando sono piccoli, ad un libro, cioè farli gustare il piacere della lettura, o anche il piacere proprio di tenere un libro in mano, di sfogliarlo, di vedere le figure, è un regalo grande, perché è un arricchimento che nessuno poi le porterà mai via, no? I libri ci danno delle emozioni grandi, e anche poi quando diventiamo grandi, chi di noi non si ricorda il libro che sfogliava prima di andare a letto con la mamma o col papà? E allora ho detto: Alberto, questo tocca a te, perché ci devi consigliare. Allora facciamo un viaggio, se sei d'accordo, dai 3 anni all'adolescenza, e proviamo a indicare la cosa migliore per ogni fascia d'età. Almeno quella che piace a noi, esatto. Quella che noi possiamo dire bollino merita blu. Il nostro bollino blu. Allora, partendo dai più piccoli. Per i più piccoli abbiamo riscoperto un bestseller che probabilmente sia tu, Nicoletta, che io abbiamo amato da piccoli, Richard Scarry, grandissimo illustratore per l'infanzia. Bellissimo. Prendete, se volete fare un bel regalo, Le storie della buonanotte di Mamma Oca di Richard Scarry, un libro pieno di bellissime storie, ha dentro 100 diversi modi per dire buonanotte, un fantastico viaggio per accompagnare i bambini nel sonno con un buon libro, un adulto che gli vuole bene vicino. E anche per accompagnare noi, perché sì, quando loro dormono noi siamo felici. Bene. Alberto, saliamo un po' di età, 5-8 anni. Sta per uscire Madagascar 2, che è un cartone che piacerà a tutti i bambini. Allora, comprate i biglietti per il cinema, prenotateli e andate al cinema tutti insieme. Poi portate a casa i vostri figli oppure i vostri nipoti e fateli giocare con un libro puzzle di Madagascar. Ce ne sono dentro 6, e con il libro illustrato del film, e passerete un pomeriggio meraviglioso. 8-10 anni. Allora, qua vi consiglio la saga di Tata Matilda. È fatta da 3 libri. I primi 2 ve li avevamo già consigliati in passato. Il terzo è che Tata Matilda si intitola Tata Matilda va all'ospedale. Se volete fare un bel regalo, tutti e 3 questi libri, e se volete aggiungere nel pacco il DVD di Tata Matilda, ve lo consiglio, è perché un libro dei dire che è uno dei preferiti di Alberto Pellai. In un minuto, rimane il pubblico un po' più difficile, Alberto, ma non ci deluderai. No, non andiamo può sui preadolescenti. Allora, per i preadolescenti vi consigliamo i libri di Licia Troisi, è una autrice italiana, un'astrofisica che ha pubblicato libri fantasy bellissimi per i ragazzi, storie che si chiamano Dal mondo emerso, ce ne sono moltissime, è appena uscito anche Leggende dal mondo emerso. Se ai vostri figli o nipoti sono piaciute le storie di Harry Potter, Licia Troisi è una Rowling all'italiana e non sbaglierete. 30 secondi, proprio un accenno anche agli adolescenti. Ormai i gusti dovrebbero essere... Premesso che gli adolescenti vogliono i soldi nella busta. Ma libri e soldi. Allora, mettete la busta dentro un libro. Un po' di soldi in meno e un libro ma in più. Ma mi ha molto incuriosito questo libro, Vasco, Stadio Infinito, di Gabriella Pozzetto. Vasco piace a tutti gli adolescenti. Dentro questo libro troviamo un cantautore sempre noto per la sua trasgressione che viene riletto nei suoi testi alla ricerca dei significati profondi della vita. Ancora edizioni. Questa casa non è un albergo. Eccoci, siamo tornati insieme, accanto a me Alberto Pellai. Alberto, prima di continuare, andiamo al nostro consiglio di lettura. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop potete ricevere a casa il libro dal titolo Neri Marco Re legge il trattamento Ridarelli, un audiobook che arriverà nelle mani del primo ascoltatore che ci invierà una mail a essere benessere@radio24.it indicando il titolo del libro, il proprio recapito e il numero di telefono. Naturalmente arriva a casa al primo ascoltatore che raggiunge il nostro indirizzo di posta elettronica. In collaborazione con IBS.it. Alberto, abbiamo parlato di libri, adesso abbiamo parlato di un audiobook e... E adesso ci apprestiamo a parlarvi di un altro audiobook davvero molto speciale con un'amica ancora più speciale. Ecco, sono qui, Pippi Calzalunga, così mi chiamo. Credo proprio che una come me non c'è stata mai. Nostro mito, la nostra eroina è Pippi Calzelunghe. Pensate che il libro è stato tradotto in 54 lingue ed è uno dei libri più amati e letti dai bambini di tutto il mondo e fa subito tornare bambini. Ma in linea con noi, e io sono davvero felice, abbiamo una Pippi vera, che è Marina Massironi. Ciao Marina! Ciao, ho tagliato ultimamente le trecce, però insomma ci sono sì, qui. Ci sono dei treccini, basta averne un pezzettino. Un pezzettino, poi cresce insomma. E se voi all'ascolto avete sognato quando eravate bambini con la Pippi di origine svedese, i nostri bambini oggi possono sognare con una nuova Pippi di cui vi facciamo ascoltare adesso la voce. Oggi non si va a scuola, annunciò Tommy a Pippi. Ci hanno dato vacanza per la raschiatura dei pavimenti. Ecco un'altra ingiustizia, esclamò Pippi. Mai che io abbia un giorno di vacanza per raschiare i pavimenti e dire che ce ne sarebbe bisogno. Basta vedere in che stato sono le mattonelle della cucina. Ma del resto, aggiunse dopo averci pensato un po' su, posso fare una bella pulizia anche senza aver vacanza. Anzi, incomincerò subito, vacanze o no, e voglio proprio vedere chi me lo impedirà. Marina, ma dare la voce a Pippi Calzelunghe in questo audiobook che è già un successone, che lavoro ti ha fatto fare? Ti ha fatto tornare piccola? Ti ha fatto rivedere delle cose che vedevi in Pippi e che con gli anni invece hai capito, no, cancellato? Insomma, è un po'... Voi attori fate sempre un lavoro su di voi, bello, bello profondo, bello. Ecco, con Pippi com'è andata? Ma è stato un lavoro istintivo e come dicevi tu ci si confronta assolutamente con la propria infanzia che non è mai finita da un, no, da un certo punto di vista esiste sempre, c'è sempre la Pippi dentro di noi. E, ma io devo dire che ho scoperto, registrando questo audiolibro, di somigliare molto, di essere stata molto somigliante nell'infanzia al piccolo Tommy. Sì. Con quel tipo di paura, di soggezione rispetto alle tipe come Pippi, no? Poi forse anche sbagliando, però insomma un po' per educazione, un po' così, perché per mancanza di coraggio, per timidezza, poi invece la Pippi che c'è dentro ognuno di noi un pochino è venuta fuori dopo. E meno male. Ma meno male sì. E meno male. Si possono educare delle pippi calzelunghe, Alberto? Ma in realtà si possono... Perché lei è così, nasce così. Sembra che ci sia da prima. Insomma, è un istinto puro, è quella che riesce a dire no ai genitori. Insomma, è una tipa tosta. È proprio una bambina che in qualche modo spaventa le mamme e i papà. Non a caso, guarda, lei non ha una mamma, ha un papà che continua a raccontare nelle storie che condivide con i suoi amici, ma effettivamente noi gli adulti nella vita di Pippi li vediamo solo quando devono combatterla, devono farla fuori, devono mandarla a scuola e lei non ci vuole andare, devono catturarla, guarda i poliziotti, e lei invece con i suoi superpoteri fa loro delle cose speciali. Credo però che il personaggio di Pippi sia bellissimo in due modi. Prima di tutto fa vedere una bambina che agisce una trasgressione molto evidente, però una trasgressione che è sempre al servizio dell'amicizia e dell'attenzione ai suoi amici. Il secondo aspetto racconta in realtà anche una bambina che è molto molto autentica, cioè chi vede Pippi trova il bambino puro, il bambino per eccellenza, quello che quasi mai riusciamo più a vedere davvero nella nostra vita, nelle nostre famiglie, a volte anche proprio nei racconti per i bambini, quindi straordinariamente autentico. Marina Massironi, come mai Pippi veramente è senza età, cioè piaceva 30 anni, 40 anni fa a noi e piace così tanto anche ai bambini di oggi? Perché secondo me infonde una vena di ottimismo sicuramente, no? L'abbiamo ascoltato anche nel pezzo di prima, la molla che le fa fare le pulizie, no? Ribalta la realtà, no? Da un lato negativo lo riporta ad un lato positivo, e poi perché coltiva il sogno e coltiva la fantasia, e questi sono secondo me ingredienti essenziali per la vita quotidiana. Senti Marina, al giorno d'oggi si parla sempre dei ragazzini, no? Che diventano, da un lato diciamo che non crescono mai e dall'altro diciamo che rimangono, cioè non sono più bambini e quindi sono pieni di stimoli, di informazioni, bombardati dalle informazioni. Tu trovi delle pippi calzelunghe tra i bambini che conosci, tra gli adolescenti? Ma sì, ci sono, però sono... non sono così autonomi, non sono così liberi come nella, e non potrebbero mai esserlo, visto che si tratta comunque di un lavoro di fantasia, di scrittura. Certo. È un ideale Pippi, forse un ideale da seguire, e trovo che sia un ideale condiviso da tutti i ragazzi, i ragazzini, e come diceva Alberto prima, è vero che gli adulti ne hanno soggezione, però sotto sotto forse sarebbero felici anche di avere una Pippi in casa. Alberto, un audiolibro che ha un'attenzione che piace ai ragazzini, ai bambini, si sente anche volentieri in famiglia, ma l'audiolibro di Pippi Calzelunghe, tu a chi lo regaleresti? A un bambino con quali caratteristiche? Oppure magari ad una coppia che sta provando a barcamenarsi con un adolescente un po' trasgressivo? Guarda, questa domanda mi fa un enorme piacere, perché sai che io ho un laboratorio familiare con bambini che vanno dagli 8 anni agli 0 anni, per cui ti posso dire, l'ascolto di Pippi Calzelunghe in casa mia ha incantato i miei due bambini più grandi, Jacopo di 8 anni ed Alice di 5 anni. Alice in realtà ha cominciato ad ascoltare Pippi Calzelunghe all'età di 4 anni, e la cosa che mi colpiva era che a 4 anni lei riuscisse a entrare perfettamente, da una parte nello stile della narrazione dell'autrice, dall'altra parte a rimanere proprio ancorata alla voce di Marina che leggeva dal CD, e la terza cosa è che Alice, che è una bambina molto regolare, molto tranquilla, fosse completamente conquistata dalle marachelle di Pippi. E quello che ho immaginato io è che proprio dentro a Pippi Alice trovava un po' la bambina che lei non riesce ad essere, perché è molto attenta, certo, a fare sempre la cosa giusta, e trovare una bambina così libera di fare la cosa sbagliata è proprio rivendicare questo diritto, le dava la possibilità proprio di sognare un'amica immaginaria. In questo senso volevo chiedere a Marina Massironi, una bella responsabilità entrare in un libro che solitamente ha le parole scritte e trasformarla in una pura esperienza di ascolto totalmente monodimensionale. meno male che non ho pensato a questa cosa quando l'ho registrato, sono stata un po' più incosciente. Meno male, no, perché non bisogna parlargli spesso ad Alberto, Marina, perché sennò poi ti fa, Alberto ti fa sempre pensare, poi però ti dà anche sempre le soluzioni quando sei in difficoltà, quindi benedetto Alberto. Questo Marina, è molto bello. Quindi non ci hai pensato, l'hai fatto un po' così? Mi sono proprio innamorata del romanzo, io avevo seguito i telefilm, non avevo avuto modo di leggere interamente il romanzo e mi ha colpito tantissimo appunto, per cui mi ci sono tuffata dentro così come appunto come la figlia di Alberto, spero, insomma, certo non in modo così puro, no? Sono un po' più grande. E ho cercato di semplicemente di esserle fedele, di non tradire... di non giudicarla, di non metterci appunto dentro delle cose da grandi, no? E infatti sentendoti nell'audiolibro, insomma, sembra proprio di sentire una vera Pippi. Per questo per me sei diventata, io ti ho sempre ammirato, ma una bella Pippi in carne e ossa. Grazie. Marina, un abbraccio, noi anche ci salutiamo, voi. Un abbraccio grande, grazie per essere stata con noi. Alberto, adesso dobbiamo lanciare un appello. Allora, siete in difficoltà con i compiti e le lezioni dei vostri figli, stanno per arrivare le vacanze di Natale. L'unico incubo che avete è come farò a fargli fare tutti i compiti delle vacanze. Perché a volte sono loro proprio che non vogliono fare i compiti e a volte siamo noi proprio che siamo stanchi di seguire, di ripetere le stesse cose. Allora noi abbiamo pensato di invitare una coppia di genitori e se volete portare anche il vostro bambino un po' in difficoltà con compiti, matematica, italiano, le lingue, e noi proveremo a dargli una mano. Alberto Pellai, che bravo, farà i compiti che sono stati assegnati e quindi non ci pensate più. Allora scriveteci la vostra storia, chiedeteci di partecipare a una delle prossime trasmissioni, essere e benessere @radio24.it, uno di voi diventerà protagonista di una delle prossime trasmissioni. Allora Alberto, per ora è davvero tutto, quindi aspettiamo famiglie in difficoltà con i compiti e buon sabato Alberto. Anche a te vado a aiutare i miei figli a fare i loro compiti. Questo lo so, io ormai ho scampato il pericolo. Grazie, buona giornata a tutti, un saluto da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.